America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Roma. Mario Platero, sono di ritorno dal lungo viaggio asiatico al seguito del presidente Obama e devo dire lo scenario politico si trasferisce questa settimana qui in Europa. I think the stakes for the world are enormous. I hope the Iranians will not get stuck in a tree of their own making on one demand or another in order to try to find a way together. Dunque comincio da due notizie agli estremi. Oggi cominciano a Vienna i negoziati per l'ultimo strappo che potrebbe portare all'accordo per la denuclearizzazione dell'Iran. L'accordo è fatto al 95%, quindi potrebbe essere davvero una grande opportunità. C'è ottimismo, c'è anche sobrietà, perché all'ultimo momento, come abbiamo visto in passato, poi soprattutto da parte iraniana si è fatta marcia indietro, ma seguirò gli eventi da qui ai prossimi giorni. Ma passiamo a un'altra notizia, anzi all'altra notizia. Ecco, l'altra notizia, come vi dicevo, una notizia questa fuori dal tempo, è una notizia che ne arriva dallo spazio. Questi rumori, questi suoni che avete sentito, che vi ho fatto sentire, sono stati registrati dalla navicella Rosetta, che è in missione ormai da qualche tempo, su una cometa, la cometa 67P. E ci ha mandato qui sul pianeta Terra un risultato. Ha sniffato l'atmosfera della cometa e ha scoperto l'esistenza di molecole organiche. Eccitazione, naturalmente, fra gli scienziati e attesa per un'altra conferma possibile, e cioè la scoperta di aminoacidi glicina, già scoperti nel 2009 da un'altra navicella spaziale, in questo caso americano. La doppia conferma sarebbe chiave. Il significato più importante? Beh, le comete portano la vita. E una delle teorie più accreditate potrebbe essere confermata. La vita sulla Terra è arrivata a 4,5 miliardi di anni fa, proprio dopo l'impatto con una cometa. In mezzo a queste due notizie, entrambe potenzialmente storiche, anche se su piani naturalmente molto diversi, c'è la normalità del giorno per giorno che oggi riguarda Wall Street. Activists is paying $66 billion in cash and stock for Allergan. Cominciamo dalla notizia. L'irlandese Actavis ha comprato per 66 miliardi di dollari, ieri, la notizia di ieri, Allergan, che è un'altra compagnia farmaceutica. C'è stata una breve battaglia in borsa, 6-7 mesi. Qualcuno potrebbe dire notizia noiosa, in fondo una notizia così finanziaria, di borsa. E invece no, anche perché dietro ogni azienda c'è un prodotto e vedi che dietro Allergan c'è il Botox, elemento essenziale antirughe per restituire, come sappiamo, bellezza, elasticità della pelle. E secondo me troppo spesso rotondità orrende e deformate a labbra le cui originarie proprietarie consideravano troppo sottili e poco sexy. Are you thinking about it? Want to know more? Talk to your doctor or find one at BotoxCosmetic.com. Ecco, ma se dietro un nome c'è un prodotto, dietro il prodotto c'è un'azienda, dietro accordi aziendali ci sono i possibili problemi. Primo, la vendita di ieri è stata possibile grazie all'attivismo di un fondo hedge del suo fondatore Bill Ackman. Fin qui tutto normale, se non fosse che Ackman e il suo fondo si erano alleati con un'altra compagnia farmaceutica americana, la Valeant. Ed è la prima volta che un investitore strategico e un investitore speculativo si alleano, creando un precedente che ha già aperto un dibattito addirittura sulla legalità dell'operazione. L'acquirente, la Actavis, nome futuristico, marchio che diventa con l'operazione fra i più importanti marchi farmaceutici al mondo, nasce solo nel 1983 in Illinois. Pensate, 6 persone si sono messe insieme per costituirla. Poi questa crescita straordinaria, ma con l'acquisto nel 2013 di un'azienda irlandese più piccola, l'Actavis trasferisce i quartieri generali appunto in Irlanda, sfrutta una dicotomia della legge fiscale americana che le consente di eludere le tasse in America, e questo problema si chiama inversion, inversione, cioè quando un'azienda trasferisce i suoi quartieri generali da un'altra parte per pagare meno tasse. Risultato di questi tre elementi è che il prezzo di vendita di ieri, $219 per azione, è il 48% in più del prezzo di sei mesi fa della Allergan, quasi raddoppiato, appunto 66 miliardi di dollari, con almeno 20 miliardi di dollari in più che sono così nati dal nulla. C'è da preoccuparsi? Beh, direi di sì, perché dopo tutte le polemiche che sono state su trasparenza, eccessi di Wall Street, crisi finanziaria, eccetera, eccetera, beh, in questa operazione ci sono in una volta tre di questi elementi nuovi che dovrebbero preoccuparci: la continua forza speculativa degli hedge fund, l'alleanza fra fondi hedge e partner strategici, vi ripeto, questo è un fatto davvero nuovo, e il più colossale, evidente esempio di elusione fiscale. Sempre ieri un'altra operazione, Halliburton Baker, 34 miliardi di dollari totale, in un giorno fusioni per 100 miliardi di dollari, siamo vicini al record di fusione dal 2000. E quest'ultima operazione, Halliburton Baker, è una tipica operazione industriale, quindi non ha creato, diciamo, non ha alzato sopracciglia, ma il fatto che in un giorno ci siano state comunque operazioni a 100 miliardi di dollari deve farci riflettere. Da una parte è il corollario di un'economia americana che tira, dall'altra ci ricorda gli eccessi che hanno portato alla crisi del 2007-2009, e al G20 di Brisbane, dove ero fino a ieri, si è parlato anche di questo, delle elusioni fiscali, del rischio degli eccessi, ma come sempre succede, le autorità sono sempre indietro rispetto al mercato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di spazio, torniamo allo spazio, torniamo alle comete, di Lonely Drifter, Karen, Comet. Da Roma è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!